Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10. Hola. Hola, attenzione 10. Cappa, dai, buonasera, Gianni Dupuro, chi sei? Chi sei, avanti. C'è qui, c'è qualcuno? Avanti. Abbassa le voce. Cos'è, la tua radio questa? No, è sempre, fa parte sempre della mia stazione. Mi ha alzato il volume, ha fatto qualcosa, non è forte. È forte perché è una radio possente. Ma non è stato un eco questo? No. Il microfono cos'è? Microfono amplificato. Nuovo, di nuova categoria, è un microfono tedesco. Non lo conosco, forte, è molto forte la modulazione. KK. Ma è anche l'apparecchio che capito, gli dà la spinta. Sì, sì, poi c'è questo bip strano, non l'hai mai sentito? No. Ma è escludibile o è sempre fisso? Lo posso escludere. No, non disturba, no. Anzi, in certi casi è meglio averlo, il bip, quando c'è un segnale appena debole, che non riesce a capire quando ha finito di parlare, va benissimo. Sì, Roberto, tutto bene? Sono entrato adesso, già va bene, dai, non ci possiamo lamentare. E tu? Io dai, mi sono ripreso, piano piano sto camminando, sto uscendo, ho fatto dei progressi. La fisioterapia hai fatto? Cosa? Fisioterapia. Sì, ho fatto fisioterapia, sto facendo tutto. Ma anche a conto tuo o solo? A conto mio. Cappa, piano piano, poi... è che c'è freddo, se no avresti camminato nella sabbia d'estate, se fosse stato d'estate, camminare sulla sabbia ti facilita, ti agevola e ti riduce i tempi. Già è vero, perché fai più sforzo. Vabbè, ma comunque faccio ginnastica, tutti i muscoli li sto ripristinando bene, dai. C'ho tutti gli esercizi da fare già da quando avevo la... Aspetta, non sei uscito un pezzo. Cosa? Un pezzo non sei uscito. Perché non sto parlando bene sicuramente. Io sono abituato all'altro, che parlo col tastino e con il microfono da tavolo. E questo qua viene a premere forte se non unisce. Ma perché non è un microfono da tavolo quello? Questo? Eia. No, questo è da palmo. Ah, pensavo fosse un microfono da tavolo, niente, come non detto. Anche in piscina, nell'acqua bassa, se c'è modo di andarci, quelle piscine che hanno le vasche dei bambini, puoi camminare, gli atleti, i giocatori, quando hanno infortuni ai legamenti e cose del genere, piano piano li fanno camminare nell'acqua, in modo che fai un leggero sforzo senza esagerare, e così riattivi la muscolatura. Si può fare... Già, non sei uscito. Non sei uscito? Ho detto, si può fare anche al mare, in riva. Vabbè, ma va, è freddo a camminare dentro l'acqua in riva. Sì, fredda, non lo so, no. Non so, roba, se è fredda. C'è gente che si fa il bagno in questa stagione. No, vabbè, freddo relativamente. Uno a mangiarci i piedi, non è che muri, siamo intorno ai 15-16 gradi la temperatura. Però il problema è che nel mare non hai, diciamo, l'assetto, cioè c'è una specie, ci sono delle... la sabbia, diciamo, non è perfettamente in piano, per cui puoi magari mettere un piede sul carico, su un piede meno dell'altro, per cui non è consigliabile. Se invece cammini nel bagnasciuga, sì, va bene, perché più o meno è tutto in piano, però fare quel lavoro che sto dicendo io deve essere perfettamente a livello, in piano il coso, il piano d'appoggio dei piedi, se no ti fai più danno che altro. Beh, ormai sono tutto ondulato, specialmente a Platamona è così, è tutta ondulata la sabbia sott'acqua. E certo che sì, devi andare in uno stagno dove l'acqua è piatta, in una fontana dei drivi dove c'è la vasca dell'acqua, te li scherzi. L'ideale è farlo in piscina, l'acqua bassa, quella del Canopolè non c'è la piscina per i bambini piccoli, sarà 10-15 metri, l'acqua è un metro, uno cammina di lì e va benissimo. Cappai, vabbè. Si riattiva lo stesso, portando il cane giù, passeggiando e facendo, si riattiva lo stesso, cammino in piano uguale, faccio strada, è la stessa cosa. E poi il cane ti tira e ti fa anche lavorare i muscoli. Cappa. E allora se c'è qualcuno qua sul 10 che vuole entrare avanti, si sente sotto in propagazione. No, io sui 40 metri. Già, non hai parlato. Non ho parlato. Guarda dove eri adesso. Ho detto che ero sui 40 metri perché non c'è nessuno qua. E c'era anch'io poco fa, in 80 metri, e stavo facendo dei diplomi, dei punti per la classifica, ho fatto qualche punto là. Ah, ma cosa c'era? Contest? No, non contest, ci sono diplomi, a seconda di quanti QSO hai fatto, ti danno i punti. Sono 25, adesso me lo ricordo, più o meno così. No, di me 25, poi sarò. Quello che stanno facendo, vabbè, questo è vicino, il Carnevale della Sardegna, stanno facendo, lo sta facendo Antonio, il coso di Antonio, il come si chiama? La sezione quella di Porto Torres l'ha organizzata a Itiri, fatto così tanto per farlo, perché ne ha fatto una cinquantina di diplomi, anche qualcuno interessante, ho fatto dei buoni risultati, senza diciamo esagerare come tempi di coso, perché c'è gente che è stata la mattina alla sera, io lo facevo un po' la sera quando uscivo dal lavoro, però qualcuno diciamo a livello sano nessuno mi ha battuto, un paio solo mi hanno battuto in un paio di diplomi, ma di poco, tutti gli altri sono sempre arrivati tra i primi. Poi ci sono quelli cavolo che prendono per io ne prendo 100 di punti, quindi ne prendono 1000, che c'è gente che sta dalla mattina alla sera, li fa in tutte le bande, li fa in CV doppio, in tutte le bande, prendo un sacco di punti, io li faccio soltanto in fonia, per cui non posso competere, però qualcuno sarà arrivato quinto, dodicesimo, su 2000 persone non è poco. Non è poco, e anche Lattalino li faceva come SWR, questi diplomi qui, ha fatto quello delle ferrovie, li ha fatto tanto. Sì, è bello, perché poi ti mandano tutte le QSL belle, te le sto dicendo, ne ho di QSL 690 mi pare, e non è che mi sia messo più di tanto da fare, però ce ne sono alcuni belli belli e me li sono stampati, me li sono incorniciati, una trentina, quanti ne ho, due, quattro, e una trentina ne ho fatto di cornici, quelli più carini, dai. Certo, gli altri feci di tirare usci, ci va brutta a passare. Come? Quando fai le cornici? Le cornici vado dai cinesi e ce ne di tutti, adesso però non le prendo più a 4, che costano i truppi, ce ne sono truppi, le ho prese quelle mezzo a 4 così e ne faccio due, ci costano meno le cornici di meno, se no non sono per più mettermi, c'ho una parete piena di una mezza parete, dai, perché nelle altre ci sono le cartine, eccetera, eccetera, ci sono gli attestati che ho, eccetera, per cui non è che posso riempirmi tutta la stanza di queste cose. Io ho tutte le QSL, se dovessi appendere al muro vai. Ma le QSL sono piccoline, i diplomi sono grandi, già sono in A4, sono belli perché ce ne sono tutti a colori, sì, quasi, sì, no, non è un bianco e nero, sono tutti a colori, anche quello di Sbardino, bianco e nero l'immagine, però il coso è la medaglia, tutto coso con la bandiera italiana è a colori, no, ma ne ho fatto tanti, cosa c'ho? Quelle delle stazioni spaziali, quelle degli attori italiani, delle navi fantasma, di magnità, ce ne sono, ti ho detto, una quarantina, forse una cinquantina ne ho fatto di diplomi. Io c'ho quel diploma di Alfa Tango, del club Alfa Tango. E vabbè, poi c'ho quelli Whisky Mike che sono iscritto anche lì, mi hanno dato tre diplomi, e quello è interessante, ho fatto di lì anche qualche collegamento, e devo dire, sempre qua in 11 metri, in banda laterale, anche abbastanza lontani, diciamo, ho fatto il Qatar, Macedonia, Stati Uniti e altri posti, dai. Non è che mi sono divertito, chi si diverte tanto è Chioga Riginito, Claudio, quello ne ha fatto, vabbè, lui sta tutta la notte parlando e provando, io l'ho fatto così per divertimento, però è carino anche quello, dai. Vabbè, sono soddisfazioni, dai. Qualche piacere. Sì, è tanto per fare qualcosa, poi c'è tante bande, ce n'è di roba da fare, se ti vuoi mettere, ce ne sono di contest, di tutto, adesso mi butto sui country perché voglio fare qualche country che non ho fatto, l'altro giorno ne ho fatto qualcuno nuovo, perché con questi diplomi non mi mettevo a fare collegamenti, facevo solo punteggio, adesso li ho un po' abbandonati e vado a fare nuove attivazioni, nuovi country che non avevo, che ne vado a fare tantissimi, ne ho un centinaio, magari ne arrivi a 340, ce n'è. Io faccio il contest di cazzo. Aspetta, si è mangiato un pezzo già, fai il contest? Sono arrivato il primo della serata l'altro giorno, il primo della serata, la stando la serata esattamente, Cioè fanno il contest con tutto il mondo. Non ho capito, dove lo fai con quello, quello non whisky maker, come si chiama? Quell'altro che stai dicendo, Alfa Tango? No, Star Maker si chiama. No, non lo conosco, ma qua è sempre in che frequenza? Io ti sto parlando di canto, io praticamente ho la passione del canto e canto su un'app dove ti danno i primi eccetera eccetera, fanno i contest come fa cosa, fanno i contest di canto però. Ah, non avevo capito il country, avevo capito di canto, no, anche quello è bello, vi collegate con tutti, tutto il mondo, c'è un server, qualcosa che gestisce e poi vi danno i punti così. Cappa, ti danno proprio, a me mi hanno messo la corona e mi hanno scritto star della serata. Cacchio, ma anche premi ci sono o soltanto così virtuali? No, non sono virtuali, sono tutte persone che cantano. No, i premi ti danno un coso virtuale, tipo delle monete virtuali, una corona virtuale, non è che ti danno mica soldi, no? Sì, virtuali, sì. Però per certe cose si paga anche. Sono virtuali comunque, io dove si paga non c'entro. No, lascia perdere. Già ne stiamo buttando tanti di soldi in fesserie, ci manca solo che perché cantare devi burubagare. No, ma infatti, no, ci sono per prendere le monete, per prendere... che dopo sono sempre cose virtuali, tu paghi ma sono cose virtuali. Ti danno le monete che puoi giocare su quella che ha cantato, capito? Insomma, è tutta la base. Infatti mi hanno chiesto di iscrivermi in una stanza, ho riuscito che preferivo restare libero a cantare dove avevo voglia di cantare io. Andavo in diverse stanze senza impegnarmi con nessuno, mi facevo le mie canzoni e boom. Poi un giorno questa qui mi ha convinto, mi ha fatto iscrivere su Atlantic, è una stanza, è una delle tante stanze dove si canta. Che contest, è una cosa divertente, va. Già, te ne mangi sempre un pezzo, su più bello attacco non si sente più. Perché ho mollato, lo sai cosa c'è? C'ho un dolore, un dito al pollice, un dolore forte, e ogni tanto mi cede, non lo so perché, sarà reumatismo, non lo so cosa sia. Ah, io già, tu sei uno di quelli pucchi affezionati ai palmari, io neanche a regalo, proprio zero. La pochissime volte che l'ho messo in macchina, forse due o tre volte l'ho usato, il baracchino in macchina, mi sono trovato male. Adesso probabilmente lo metto nella macchina, il VHF, il Mi Banda, e avrò grosse difficoltà per usarlo, perché non ci riesco, è più forte di me. Mentre seduto, schiacci il tasto, ti mette alla distanza ottimale e non tocchi niente. Ti piace in macchina, Robert? Buchi la capote? No, la macchina mia ce li ha già i buchi, era un taxi, ne ha due, c'ha l'antenna della radio davanti e dietro c'ha già la predisposizione con tutto l'impianto originale Fiat, già passato perché è nata taxi la macchina mia, c'è già il foro, devo soltanto togliere quel tappo e mettere la sua basetta già predisposta, non devo bucare niente. Ah, ma la metti dietro l'antenna? E già dietro è predisposta. Certo, ce ne sta una, quando ce ne sta due? La metto dietro nella parte verso il portellone, c'è già il foro, di lì si toglie il tappo, dietro c'è il cavetto già passato e arriva sino col PL, sino a dove c'è diciamo la leva delle marce, la parte dal coso, dove c'è l'autoradio, arriva sino lì il cavo. Ah, quindi hai già predisposta per mettere il radio? Ehi, ho detto che è nata quella macchina, è nata taxi, quando compri una macchina taxi la Fiat ti dà tutte le predisposizioni per l'antenna e più c'è anche la predisposizione dell'insegna fuori taxi davanti, c'è l'alimentazione e tutto. Ah, ho capito, quindi va bene, il cavo che c'è va bene, che tipo di cavo hanno messo? Ma a occhio sembra il Regi 58, poi non so se Regi 58 norme 1000 o di quello normale, mi immagino la Fiat queste cose mette roba buona, non mette cavetti cinesi, no? Adesso fortuno, anche se stanno facendo tutto con l'economia adesso. Sì, vabbè, ma per 3 metri di filo quanto saranno? 2 metri e mezzo di filo, non penso che si facciano vedere, che poi magari dice, mi qua si è ossidato il cavo, se quello, penso che mi facciano più bella figura e a metterne uno più decente per risparmiare un centesimo, cosa risparmio? Basta dirti una cosa, che dopo 6 mesi che ci avevo la macchina mi sono rotto l'altro cristalli e me ne è sceso il cristallo di colpo, cavolo, non si è rotto. Ma si è solo sganciato o si è rotto l'altro cristallo? No, proprio il dentino si è rotto, sgranato. Ma lì fanno anche di concorrenza, quello si può prendere solo il meccanismo anziché prendere tutto il motore interno. Sì, solo il meccanismo ha cambiato. Ma di concorrenza l'hai preso? No, l'ho preso alla Fiat. E chissà quanto te l'hanno fatto pagare, quanto l'hai pagato? È buono, me lo dico, 80 euro, una cosa del genere. Originale, sei sicuro che costa così poco? Sì. È poco, di plastica, di roba, è plastica. Come plastica? Ma non è cambiato tutto? Di lì c'è un cavetto d'acciaio che scorre con delle pulegge e supportino in plastica, che ha cambiato tutto il meccanismo intero. Sì, tutto il meccanismo, ma l'ingranaggio, quello dove si è sgranato proprio, quello lì in plastica. E sono tutti in plastica, in teflone, sono tutti quanti, è fatta apposta, dopo un certo numero di uso si rompe, come va fuori dalla garanzia, c'ha non so quanti milioni di movimenti, lo fanno apposta per rompersi, è calcolato, si chiama industrializzazione, aspetta, c'ha un nome particolare, per rompersi, si riguadagnano dai ricambi le case, mica guadagnano da vendere le macchine. E prima le cose non erano così, prima erano tutte resistenti, io preferivo l'alza cristalli a mano ancora, non si facevano mai. E vabbè, anche quelli si rompevano col tempo, però ai tempi del 127 e 128 il cavetto, di mettervi un po' di grasso non si arrugginiva, se mai lo lasciavi senza grasso col tempo si sfilacciava e si rompeva, però noi compravamo il cavo separato, ma costava poco. Adesso purtroppo sono tutte così, l'ingegnerizzazione lo fanno apposta per rompersi, dopo i termini di garanzia ci sono degli studi, delle università, chiamiamole, degli istituti di ricerca che si occupano di questi coso qua, della rottura dei materiali, e loro li calcolano al millesimo di millimetro in modo che entro i limiti di garanzia funziona tutto bene. Il giorno dopo tac si rompe, qualcuno si rompe prima perché magari fa un uso più gravoso, però lo dicono, la garanzia è 2 anni, deve durare almeno 2 anni, se dura 2 anni e un giorno peggio per lui. Allora mi si è rotto dopo 6 mesi. Dopo 6 mesi? Per un amico, stavo chiudendo un vetro e ne fa il ricordo, boom, tocca. E allora si è dovuto salire su, l'abbiamo messo un pezzo di nylon con il nastro per il momento, poi di domani l'abbiamo smontato con un amico e l'abbiamo piazzato. Prima una cosa, e non ti hanno cambiato in garanzia? No, negativo, non ci sono manco andato, Robo, non ci ho pensato, la verità. Quella lì l'avrebbe voluto cambiare in garanzia quel pezzo. Ma sì, appunto, la batteria che non va, dicono che la roba elettrica non la cambia, non sono in bollino, dicono la garanzia, qui la garanzia non ti muove di nulla. Vabbè, però se c'è la possibilità approfitta, se c'è 6 mesi di vita te lo devono cambiare in garanzia, ma sto scherzando. A me in garanzia mi hanno cambiato tutto il cruscotto completamente. Ma cos'era, difettoso o che cosa? Qualche, come si chiama, quando fanno i richiami che c'è qualcosa per gli airbag? Sì, era difettoso, praticamente non funzionava, a volte non funzionava la pennina USB, a volte si accendeva da solo l'aria condizionata, l'ho portato, diceva che fosse software, proviamo a rimetterlo, questo e quell'altro, l'hanno provato e non andava lo stesso, allora dopo l'ho portato, mi ha detto tanto ordiniamo il pezzo e lo cambiamo se vediamo che non va bene. L'ho telefonato, gli ho detto che mi stava facendo un difetto, anzi gli ho fatto il filmato perché si accendevano spie strane e cose, gli ho fatto tutto il filmato, gli ho portato da vedere, gli ho detto sì va bene, adesso lo ordiniamo, quando arriva la chiamiamo. E mi hanno cambiato, quanto ha durato? Praticamente non ce l'avevo manco un mese e mi facevano questi difetti qua. Ma noi, tu stai parlando del quadro comandi o della plancia porta strumenti? Dove c'è il contachilometri, eccetera, eccetera. Ah, quadro comandi, infatti stavo dicendo cosa c'entra la plancia porta strumenti. No, no, capita queste cose qui, ma tante volte le vedi, impazziscono. C'è quello della, c'è una cliente nostra con una, c'ha una Twin, non Twin, una Clio, acquistata, aspetta, mi sembra giugno 2022, stiamo aspettando un faro da agosto 2022, non è ancora arrivato, è arrivato ad agosto, il, c'era rotto l'autoradio è arrivato l'altro giorno, che l'autoradio non gli permetteva di far funzionare il sensore di parcheggio, niente, perché è tutto collegato, è arrivato l'altro giorno, ordinata a luglio, perché quando era nuova la macchina è in garanzia, da come è successo la guerra in Ucraina, c'era uno stabilimento francese di lì, non so dove cavolo era, di lì in Ucraina, per cui tutta la produzione è ritornata in Francia, si è accavalato tutto e sono in difficoltà la Renault per avere reperibilità di questi fari a LED. Se è presente, ordinata il 28 di agosto, quante ne abbiamo oggi? 19, tanto è. Il 18 di febbraio ancora non è arrivato. Vabbè, io comunque sono del parere che da quando hanno fatto tutti questi macchine con sensori, tutta questa roba qua, hanno più difficoltà. Io prima nelle altre macchine non ho mai avuto problemi, nella Opel, manco un problema mi ha dato, mai. La sonda Lambda l'ho cambiata, ma dopo 12 anni che ce l'avevo. Purtroppo il coso, la tecnologia è così, prima avevi 5 centraline, adesso ce ne sono 40, 50, 80, se vai nel Mercedes anche 130 centraline ci sono, che gestiscono ogni cosa, da sedile elettrico al TG18, al sacrificio elettrici, le bioluci, ce n'è una marea, più roba c'è, più roba hai possibilità di rompere, prima non avevi niente, ti prendevi la 500, 127 di elettronica, non c'era niente, al massimo ti si rompeva nell'intermittenza delle frecce, adesso con tutti i discorsi di sensori non parliamo solo di roba elettronica, poi ci sono i problemi di diagnosi del motore, sensore di giri, sensore di fase, antinquinamento, e lì ce ne sono altrettanto di possibilità di rompersi qualcosa, così purtroppo l'elettronica è quella, non c'è affidabilità, tu il motore ti dura 500.000 km, però magari ti si rompe un sensore, ti va fuori fase, tu e spacchi tutto. Roberto, come dire, io non mi fido delle macchine elettriche, ho paura di perdere un motore elettrico perché ho visto le colonnine dell'Eren, nulla ne sai, al mondo visto ci sono le colonnine dell'Eren. È una presa per i fondelli la macchina elettrica, non è comprare, e ancora di più le macchine ibride, è solo una presa per i fondelli. Il discorso delle macchine ibride l'hanno fatto per entrare nei parametri antinquinamento, perché sennò non ce la fa entrare nei parametri, per cui dice dobbiamo fare in modo che parte del lavoro del motore a combustione venga effettuato da quello elettrico, così abbassano i valori di coso, di inquinamento, sennò non c'è possibilità. Macchina elettrica è una presa grande per i fondelli, perché il problema è l'accumulo della corrente e le batterie, naturalmente, e la ricarica. Con cosa ricarica? Se c'è un motore da 100 kW e c'è 2 kW a casa, perché più di 2 kW non hai, diciamo, disponibili, perché tutto il resto c'è un frigorifero attaccato, non so, qualunque cosa, la lampadina, diciamo, la notte c'hai disponibili 2 kW, 100 kW diviso 2 ci vogliono 50 ore a caricarlo, ti metti 10 kW e fatti il conto, 100 diviso 10 ci vogliono 10 ore quando lei scarica la batteria, ti dicono 500 km di autonomia, se ne fai la metà è troppo, accendi il climatizzatore e si riduce ancora di un'altra metà. È una pillola da fondo, conviene solo con le macchinette piccoline con motori da 8 kW, tipo con la AMI che ha fatto la Citroën, quella piccolina in plastica, due pulsi, la usi solo in città, c'ha 100 km di autonomia, la notte l'attacchi e in 4 ore si ricarica e buh, tutto il resto sono prese per i fondelli. Quale? Il portachiavi? Come? Quel portachiavi che ha fatto la Citroën? Quella tutta in plastica, l'hai vista? Sì, già l'ho vista, c'era una ragazzina vicino a casa. Ma non è, dovrebbero aver inventato adesso tipo l'alternatore che carica la batteria, adesso dice che li ricarica camminando. E quindi cosa fa? Quelle ibride, ma non quelle elettriche, totalmente elettriche, non fa niente. Il problema è la batteria, Gianni, è l'accumulo di energia, il futuro è l'idrogeno, solo con quello riesci a fare qualcosa, metti acqua e produci l'idrogeno, è un po' delicata diciamo come tecnologia, però con quello è futuro. Fino a quando non ci saranno le batterie di dimensioni limitate con capacità enormi, purtroppo non ce n'è. Ci sono le spaziali, i satelliti e cose del genere, ma sono energia nucleare, sono piccoline, eccetera eccetera, per cui non è per i cosi nostri. Sì, Robert, ma io guarda, va benissimo la GPL, va benissimo, l'inquinamento inquina meno del gasolio, della benzina, va la GPL, io benzina la metto solo in moto. Ma anche il GPL non c'è più convenienza rispetto a prima, tu ce l'hai di serie o originale di serie? Sì, l'ho comprata così già con l'impianto. Però considera, se tu vuoi metterti un impianto a GPL ci vogliono 1000 euro adesso tra una cosa e l'altra. Prima di ammortizzare questi 1000 euro ce ne vuole di tempo, perché tu devi fare il confronto tra un litro di carburante con quanti chilometri ti fa e un chilogrammo di coso, di gas, e ti fa il rapporto. Ci vorranno 10 anni per ammortizzarlo, per cui anche quello è un discorso così, un po' da verificare bene. Vabbè, io nella Opel l'ho messo da Calvino l'impianto. L'ho ammortizzato poco tempo, perché io facevo 80 km al giorno come minimo solo per andare a lavorare, e poi la usavo anche per altro la macchina, quindi ammortizzare già li ho ammortizzati, e da 300 e passo euro che consumavo di benzina sono arrivato a 130 di gas, capito, di GPL. Prima, perché facevi strada, adesso strada non ne fai più, e se tu dovessi prenderti la macchina senza l'impianto ci vogliono dai 1000 euro in su, se poi vuoi fare qualcosa magari più tecnologico ce ne vogliono anche di più, 1500, 1800, dipende anche dalla macchina. Il costo del gas, l'hai visto quanto è aumentato rispetto a 10 anni fa, per cui non c'è più il 50% di resa che potevi avere prima, adesso magari c'hai il 20% di resa, e quanti chilometri devi fare per risparmiarti tutto questo rapporto qua? Adesso io l'ho già comprata così comunque adesso, ma quando l'ho fatto sulla Opel c'era l'incentivo della regione, che praticamente ti dava un tanto se tu mettevi l'impianto a gas, e io ho usufruito di quell'incentivo. Sì, assolutamente d'accordo già, come stanno incentivando le macchine elettriche, che è una biglia da barufondo, però la gente quando ce l'ha se ne accorge che cosa è la macchina elettrica e che cosa è la realtà. Ma a me non mi dà nessuna... Già, scaccia bene. Le batterie e poi a furia di caricarle se ne andali, cioè sono macchine che fanno pochi chilometri, ma non mi danno affidabilità. Se ti si scarica la macchina per caricarla è un casino. Allora, ho visto che hanno messo di fronte ai giardini la colonnina per caricare le macchine dell'Erel. Sì, ce ne sono tante, da tante parti, anche qua vicino a Piazza Lessini, nella salita ne hanno messo tantissime di queste centraline, sono da 15 kW, 20 kW, però fatti conto quanto ti costa una ricarica, ti costa mediamente dai 25 ai 30 euro, e per dire, con la macchina magari ne consumi 60 euro, e poi quanto costa una macchina in elettrica? Lo sai quanto il rapporto tra una macchina totalmente elettrica e una macchina a combustione? Di media costa il 50% in più. Sì, ma poi la fidabilità è quella che non mi dà molta fidabilità, perché l'umidità ho paura che magari usi di faccia, sai, la roba elettrica è così. No, quello da quel punto di vista, allora il rendimento di un motore elettrico è intorno al 95%, il motore a combustione meno della metà, siamo intorno al 45-43%, non hai più problemi di cambio, di frizione, di niente, perché il motore è diretto, non c'è bisogno di radiatore o raffreddamento, lo prendi e funziona come un trapano, l'hai visto, tu schiacci, c'è la coppia istantanea, non hai bisogno di marcia perché la coppia ce l'hai appunto all'acceleratore o a manetta, è sempre uguale. L'unico problema è l'autonomia, perché con il coso, e poi diciamo lavorare sulle macchine elettriche non è da tutti, bisogna avere grande esperienza, massima attenzione perché ci sono alte tensioni e bisogna stare molto attenti. Il ciclo di vita della batteria mediamente è 10 anni, quando vai a cambiare ci vogliono dai 15.000 euro in su, tu mi dirai la macchina non me la tengo 10 anni, però e poi te la prendi con le batterie al 50%. No, quanto costano le batterie, scusa? Le batterie dai 15.000 euro in su, anche 30.000 euro una macchina media. Io ti compagno la sua macchina. infatti è quello il discorso, una cosa prende la nuova, la paghi 30.000 euro, poi dici dopo 10 anni le batterie vanno sostituite perché non hanno più quel ciclo di ricarica, per cui hanno una resa molto inferiore, perché se ne facevano 100 di chilometri se ne fanno 30, e per cui devi cambiarle, e se te le vuoi cambiare ci vogliono dai 15 ai 30.000 euro. Poi se prendi una Tesla di quelle da 200 kW non ne parliamo. Io mi ricordo, avevo letto, noi quando le cambiavamo 7.000 euro costava. No, ma io ti ripeto già, io le ho viste le macchine a idrogeno, quello è il futuro, non hai nessun inquinamento, nessun problema e niente, e sfrutti la tecnologia che c'hai, quei motori che c'hai, perché tu non puoi far morire tutto l'indotto dei motori. Adesso vogliono portare nel 2035 eliminare totalmente le macchine a combustione, e i camion come fanno, le navi come fanno, sarebbe una cosa ridicola, cioè non si rendono conto neanche come facciamo a sostituire noi i mezzi di trasporto industriali, i mezzi commerciali, gli autobus, e cosa metti tutto elettrico, e cosa ci vuole a produrre tutta quell'energia elettrica? Allora già metti GPL. Già, non ho sentito niente, non sei uscito. Ho detto, gli autobus li stanno facendo totalmente a GPL, il continente sono già così, tutti a GPL. Sì, ci sono da tanto, però GPL col discorso dell'Ucraina, adesso ci stiamo attrezzando per prenderlo dall'Algeria, però cosa succede se ti bloccano anche l'Algeria? Allora lo prendi il gas. Allora dice che noi ne abbiamo qua, solo che lo vendiamo agli altri. Aspetta, siamo attenti, che abbiamo il 5% di produzione di gas, a noi ce ne serve il 95%, è inutile che dici produci 5 miliardi di metri cubi di gas e ce ne vogliono 200 per fare il fabbisogno italiano. Lo so, però visto che non vendono altri paesi vuol dire che c'è istanto, magari quel 50% che abbiamo noi non è compreso con quello che vendono. No, ma noi non ne vendiamo, noi li facciamo da tramite, adesso con questa tratta dell'Algeria, cosa del genere, noi siamo in Europa, i primi, per stoccaggio siamo i più grossi del mondo, più della Germania, più della Francia, abbiamo la possibilità di stoccarlo noi il gas, per quello noi ne abbiamo in abbondanza come stoccaggio, lo diamo anche agli altri, però non è gas nostro quello. Capito, e vabbè, comunque... stiamo togliendo tutto da sottosuolo, fa finire che la terra si molla. Diciamo ce ne sono altre opportunità, però per il momento i petroli ricomandano il mondo. Se c'è qualche opportunità, quando c'era Tesla che aveva inventato delle cose, energia pulita indefinita, purtroppo dicono che si è ammazzato, invece l'hanno ammazzato. Quando c'è qualche tecnologia nuova, c'è quel signore anni fa che ha messo le macchine ad aria compressa, quell'altro che funzionava tipo un pendolo con una spinta leggera gli dava la cosa, un sistema di ingranaggi tipo carica a molla, però lo faceva con degli ingranaggi, c'era un piccolo motore, gli dava lo spunto e poi con questa catena di ingranaggi continuava a camminare, come faceva a fare 5.000 km con un litro di carburante, una cosa ridicola questa macchina. Purtroppo li boicottano, oppure dicono ti pago il brevetto, io ti darò una cifra spropositata, e poi lo bloccano. Le industrie petrolifere, tu ne vedi cosa succede se bloccano, trovano un'invenzione che ti permette di camminare la macchina gratis e senza niente, e che cosa vivono loro? Ci sono sempre... purtroppo viviamo in questo mondo e ci sono stati sempre queste persone che hanno impedito agli altri, come anche per le malattie, ci sono tante innovazioni nelle malattie, anche nel diabete, però fanno per le case farmaceutiche, per le farmacie, per tutto quello che c'è dietro, fanno di tutto per tappare, perché ho letto che c'è uno scorpione in Africa che praticamente produce insulina, ed è insulina buona, capito? Non è insulina chimica. Ecco, quell'insulina lì praticamente iniettano questa insulina, ti può passare il diabete. Ma ci sono tante cose, anche il cancro, si dice che il cancro è stato sconfitto, esistono le medicine, e che cosa ne ha un'industria farmaceutica di dire te la medicina e ti tolgo il cancro, ti sconfiggo il cancro? L'hanno fatto naturalmente iniziale, sei tutto macio, e, diciamo, se sei metastasi non c'è niente da fare perché l'organismo è debilitato, però parliamo in uno stato iniziale.